vino proprio come te, e dolce e tenero, e un cuore libero. Ciaccia il suo cane che si è trasformato in una macchina giocattolo per lui. Bubu, Ciaccia, un'avventura, sai che ti sorprenderà. Prova a venire con noi, vedrai che Bubu, Ciaccia, è inimitabile. Può colorare tutti i sogni tuoi. Ciaccia è un amico indispensabile, con Buddy una coppia inseparabile. Girano insieme tutta la città, con i consigli di mamma e di papà. Bubu, Ciaccia è un'avventura, sai che ti sorprenderà. Prova a venire con noi, vedrai che Bubu, Ciaccia è inimitabile. Può colorare tutti i sogni tuoi. Ciaccia è un'avventura, sai che ti sorprenderà. Prova a venire con noi, vedrai che Bubu, Ciaccia è inimitabile.